1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. È venerdì, amici, alle 7:19 minuti in punto, il giorno in cui si conclude la 148esima settimana decisiva di questa legislatura per l'abolizione delle province. Dai, dai, dai. Allora, siamo qui, parleremo anche più avanti, oltre che nella lettura dei giornali, di quello che sta succedendo in Libia. Sicuramente lo faremo con l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi, con il generale Vincenzo Camporini. Insomma, andiamo in guerra o ci siamo già dentro all'insaputa un po' del Parlamento, comunque con un dibattito pubblico che non è così diffuso su quello che sta succedendo, lo scopriremo. Intanto andiamo a approfondire tutto dai giornali. Venerdì 4 marzo, venerdì per l'appunto, il Sole 24 Ore apre sugli appalti, codice leggero da 660 a 217 articoli. Questo è il titolo della prima pagina, con il primo sia la riforma che riguarda soprattutto il settore dell'edilizia, ma non solo. E poi il titolo di prima pagina è Libia, uccisi due italiani, a fianco quasi con la stessa rilevanza. Erano scudi umani dell'ISIS. Tra l'altro di Libia parlano tutte le altre testate in prima pagina. Corriere della Sera: così hanno ucciso i due italiani rapiti, traditi da un autista, erano nelle mani dell'ISIS. Repubblica: uccisi in Libia due italiani rapiti, pronto l'attacco con aerei e navi. Il Messaggero: ostaggi uccisi, Italia in allerta. La Stampa: al sangue degli italiani in Libia. Il Giornale invoca: e adesso guerra seria, il califfo è alle porte. L'Unità: gli scudi umani dell'ISIS. Mentre il Manifesto mette la foto di miliziani libici e il titolo è Al fronte. Avvenire invece: primi caduti in Libia, parte la missione. Il Fatto Quotidiano: Libia, i primi due caduti italiani, la guerra si fa ma non si dice. L'unico giornale che invece mette questa notizia in prima pagina in risalto, ma poi il titolo principale è su altro, è Libero. Finalmente l'Europa dice la verità, va de retro immigrati, il presidente del Consiglio europeo: non c'è posto per voi. Come vedete, la notizia principale è questa, la Libia, la approfondiremo. Prima però, come di consueto, voglio partire da altre notizie che mi hanno colpito. La prima riguarda una persona che tutti voi certamente conoscerete, perché è autore di uno dei delitti più atroci 25 anni fa, Pietro Maso, che ha ucciso i genitori. Ve lo ricordate? Immagino di sì, magari anche i più giovani. Pietro Maso, che insieme a tre amici nel 91 uccise i genitori in provincia di Verona per soldi. Sapete che è uscito di carcere, ha scontato la pena, qualche sconto e via. Ora però è finito nuovamente nei guai, perché c'è una telefonata, dicono i carabinieri, nella quale Pietro Maso direbbe all'interlocutore: con le mie sorelle devo finire il lavoro di 25 anni fa. Eccolo qui, le minacce di Pietro: c'è ricascato, le sorelle di Maso finiscono sotto protezione, il killer dei genitori al telefono col proprio padre spirituale ammette: devo finire il lavoro di 25 anni fa, e si conquista intanto paginate sui giornali. Maso, minacce di morte alle sorelle, anche Il Giorno dedica una pagina, anche Libero, anche Repubblica, Repubblica fa anche un'intervista a un frate, Beppe Prioli, il consigliere spirituale di Pietro Maso, così come di tanti finiti in carcere per delitti efferati. Dice: è una storia dolorosa, penso alla sofferenza di quelle due donne, nel loro animo è un ritorno al passato. D'altronde Maso deve fare un cammino lungo, lungo, lungo, ci vuole molto tempo e forse ha corso troppo in fretta, il percorso stava dando i suoi frutti, poi qualche scelta che andava ponderata meglio, tipo il matrimonio, non l'avrei fatto né in carcere né fuori. E poi c'è stata anche un'intervista a chi? Un grande errore, dice il suo padre spirituale. E adesso prego per lui e per le sorelle. Insomma, Pietro Maso, il titolo di Repubblica: devo finire il lavoro, l'ultima minaccia nel mirino, le sorelle. E vabbè, lasciamolo lì. Invece i giornali si stanno occupando, anche dopo la vittoria del premio Oscar al film Spotlight, della vicenda degli abusi e di pedofilia che hanno coinvolto alcuni esponenti della Chiesa. In particolare ora l'attenzione è concentrata sull'Australia, dove il cardinal Pell deve anche rispondere, ha risposto a una commissione australiana di fatti che erano relativi alla diocesi che lui presiedeva, la diocesi di Ballarat, vicina a Melbourne. Ebbene, il cardinale Pell, in qualche modo, scrive Repubblica, dopo peraltro aver incontrato le vittime o i familiari delle vittime di quegli abusi, dice: sono addolorato. In 8 familiari delle vittime rifiutano il faccia a faccia, gli altri invece sì. Racconta il vaticanista di Repubblica Paolo Rodari a pagina 23, George Pell, il canguro, come lo chiamano oltretevere per le sue origini australiane, appare provato e affaticato quando scende i gradini che lo separano dalla hall dell'Hotel Quirinale in centro a Roma. Qui ha incontrato in una stanza riservata 12 vittime di abusi sessuali commessi da sacerdoti nella diocesi dove lui è nato. 8 vittime invece hanno preferito non essere presenti. Poco prima Anthony Foster gli aveva detto: la mia famiglia perfetta è stata distrutta. Anthony Foster è padre di 3 figlie, 2 delle quali abusate da piccole dallo stesso prete. Una si è suicidata, l'altra è diventata un'alcolizzata, guidando ubriaca ha fatto un incidente che l'ha lasciata paralizzata. E quanti sono i casi? Migliaia. Migliaia, mormora ricordando le 800 denunce arrivate in Vaticano in un solo anno. Il fenomeno è circoscritto a un certo numero di individui, prova invece a minimizzare il cardinale Gerhard Müller, prefetto della dottrina della fede, ma lo stesso cardinale Pell, australiano, dice: sono addolorato e chiedo scusa. Troppo spesso la Chiesa non si è adeguatamente preoccupata delle vittime. Insomma, ammette, avrei potuto fare di più. Quindi di fronte anche a questo dramma, racconta Repubblica, il cardinal Pell, che ha risposto fino alle 3 di notte per il fuso orario alla commissione che in Australia sta indagando su questi abusi. E storia di Chiesa è anche questa. La leggo su Libero, pagina 17, la truffa al Duomo di Milano, spariti 450.000 euro. Ma come? Salvatore Garzillo racconta tutto a pagina 17, le preghiere stavolta non basteranno, nei conti della veneranda fabbrica del Duomo di Milano c'è un buco da 450.000 euro che neppure la più impotente invocazione del Papa riuscirà a colmare. Soldi raccolti grazie al biglietto d'ingresso per accedere alle terrazze del Duomo, ma gli uffici amministrativi stanno facendo i conti con la triste consapevolezza che questi contanti non li vedranno più. Infatti, per 2 anni la società Sistema Milano, SRL, è stata incaricata di gestire il sistema d'ingressi e il conseguente ricavo economico. Spiega così Gianni Baratta, direttore dell'ente che dal 1387, anno di fondazione del Duomo, si occupa della sua costruzione e il reperimento dei fondi. Ma cosa succede? Succede che nel febbraio ci siamo accorti che i conti non quadravano, abbiamo rescisso il contratto e però mancano 450.000 euro. Che fine hanno fatto questi soldi? L'idea è che qualcuno se li sia intascati e quindi al Duomo ora piangono. La truffa al Duomo, il capo della società che gestiva le biglietterie, non sarà condannato perché ha compiuto un reato ma depenalizzato, ma sarebbero spariti 450.000 euro. Tempi duri. Mentre, cari studenti che siete all'ascolto, state andando a scuola, magari accompagnati dai vostri genitori, sappiate che ma insomma, magari dite molti di voi: è venerdì anche per voi, ultimo giorno di scuola della settimana, ma potrebbero cambiare le cose. Controordine, compagni, il sabato tutti a scuola. Pagina 27 di Repubblica, si racconta con Michela Bompani la storia di una sentenza del TAR della Liguria che ha dato ragione al liceo classico Chiabrera di Savona, che aveva fatto ricorso contro la decisione della provincia di Savona, le province, della provincia di Savona, di sforbiciare di un giorno alla settimana, insomma, ad andare dal lunedì al venerdì, magari allungando l'orario, e saltare invece il sabato. Questa scuola invece ha fatto ricorso. No! Il sabato vogliamo andare a scuola! E magari gli altri giorni ovviamente non andiamo a scuola fino a tardi. E il TAR ha dato ragione a questo liceo, che quindi ripristinerà le ore di scuola del sabato. Lo stop alla settimana corta dopo il ricorso di un liceo classico in Liguria. E adesso dalla Campania alla Sicilia, alla Toscana, dove la settimana scuola si ferma venerdì per circa l'80% delle scuole superiori, spalmando ovviamente le ore del sabato soppresso durante l'altra settimana, ma si guarda con attenzione a questa sentenza a dire forse è meglio andare meno ore a scuola dal lunedì al venerdì e recuperare il sabato a scuola. Che ne dite, cari studenti e cari genitori? Non lo so. Valutate e fatevi i vostri calcoli. Ma siamo al premio che mi ha fatto, per l'articolo che mi ha fatto più della giornata. Ah, lo so, adesso mi accuseranno gli animalisti, insomma i fanatici. Ma mi ha fatto pensare il blitz vegano. Cosa c'entra vegano? Non è proprio, questo titolo non c'entra proprio niente. Comunque, su Repubblica, il blitz vegano nel locale di crack. Chef assassino, perché ha cucinato il piccione in una puntata di MasterChef. E ancora l'animalista Lorenzo Croce, presidente dell'AIDA, dice ha violato la legge, quel piccione era protetto. Ma era un piccione d'allevamento, non c'è niente. No, ha sbagliato. Ma comunque non sono questi dell'AIDA che hanno fatto questo blitz. Sono 15 cretini, ecco, 15, perché non avevo altri termini da utilizzare. Ah, 15 attivisti su Repubblica, dicono attivi, cretini, vabbè, io ho semplificato, sono un po' grezzo e semplifico. 15 attivisti che hanno fatto l'incursione al locale di Cracco, assassino! Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Su Radio 24, Stato Man, viene Alino Mila, anche dei giornali, come nessun altro fa. Ti ha detto Lamonese, Lamon Belluno. Beh, bello, da Lamon Belluno, evviva il nostro ascoltatore che ci manda in dialetto lamonese, giusto, capito bene? La sigla al 349-238-6666 via WhatsApp. Allora, dobbiamo parlare di Libia, cosa che faremo anche più avanti con gli ospiti, ma i giornali sono densi di articoli di quella che purtroppo intanto è una tragedia, una doppia tragedia italiana, perché Fausto Piano, Salvatore Failla, due dei quattro rapiti nel luglio del 2015, dunque 6 mesi fa, sono rimasti uccisi in circostanze ovviamente da chiarire, forse, come racconta il Sole 24 Ore, forse usati come scudi umani dai jihadisti. C'è da dire che sono 4 gli italiani che erano stati rapiti nell'occasione del luglio 2015, 2 purtroppo ora sono morti, 2 confermano le fonti di intelligence italiane sono ancora vivi, e dunque c'è anche questa situazione molto complicata, perché bisogna salvare la vita almeno agli altri 2. Ecco come siano morti. Qui le versioni sono varie. Lorenzo Cremonesi racconta: traditi dal loro autista, uccisi nella fattoria dell'ISIS. Il governatore di Sabrata, la città a ovest di Tripoli, dove è successo il fatto, che dice: i 2 corpi sono nel nostro obitorio. Sono stati traditi, racconta Lorenzo Cremonesi, dall'autista, il giovane Mohammad Yahia, che già in luglio fonti bene accreditate tra il personale dell'ENI indicavano come fortemente sospetto. Crediamo che abbia organizzato il rapimento a scopo di riscatto e consegnato i 4 allo zio. Da lì ovviamente mesi di incubo per i familiari, nessun contatto, qualche contatto sporadico. E poi che cosa è successo? È successo che probabilmente, scrive Lorenzo Cremonesi, la situazione è precipitata verso la fine del 2015, Probabilmente mercoledì 2 marzo i combattenti di Rada hanno accerchiato la fattoria di Jafara dove erano tenuti. Sapevano che lì potevano trovarsi alcune cellule dell'ISIS, ne è seguita una sparatoria e alla fine sono stati uccisi anche varie persone dell'ISIS, ma sono stati anche trovati i corpi senza vita dei due italiani. Non si sa se siano morti in questo scontro a fuoco o addirittura siano stati freddati dai terroristi quando si sono sentiti perduti. Questo è quello che racconta il Corriere della Sera, mentre Carlo Bonini su Repubblica: finiti in mezzo al fuoco tra gruppi rivali quando la libertà era vicina. Racconta Carlo Bonini che in realtà c'erano stati dei contatti, c'era stato forse anche un riscatto in parte pagato e quindi erano vicini alla libertà. Qui parla non tanto di un assedio a una fattoria, Carlo Bonini, ma un inseguimento. Mentre stavano cercando di spostare i due ostaggi italiani da un posto all'altro, il conflitto a fuoco che ne sarebbe seguito tra i due pick-up che hanno risposto al fuoco, e dunque non tanto in una fattoria ma in un trasferimento tra macchine, scontro a fuoco nel quale sono morti questi due italiani. Ora La Stampa riesce a raccogliere con Nicola Pinna da Capoterra in provincia di Cagliari la dichiarazione di uno dei figli, la figlia di Fausto Piano. Nostro padre non era in Libia per fare la guerra, era solo lì per portare il pane a casa. Era un uomo di pace, non meritava di essere ucciso così. Mentre la moglie di Salvatore Failla, che è di Carlentini in provincia di Siracusa, ha rilasciato solo una dichiarazione tramite il suo avvocato dicendo: finché non c'è la conferma ufficiale io non credo che mio marito sia morto. Poi purtroppo la conferma ufficiale evidentemente è arrivata nel corso della giornata. In tutto questo ci si chiede: ma l'Italia che fa in Libia? Ieri sul Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera, c'era l'anticipazione di decisioni prese al Consiglio dei Ministri, dal governo, decisioni che erano segretate, non dovevano evidentemente finire sui giornali, di 007 italiani già impegnati, di 007 che sono pronti a partire, di missione militare italiana già molto ben avviata. Tutto ciò pare che abbia fatto molto arrabbiare Renzi, molto arrabbiare. Si parla di un Renzi infuriato per queste notizie, come racconta Francesco Verderami a pagina 5, un Renzi che impreca in Consiglio dei Ministri, dove ieri era riunito e dove è arrivata la notizia dei due italiani morti, ma poi impreca dopo aver letto la rivelazione del decreto con cui è stabilito la linea di comando per le possibili operazioni sul campo. Un Renzi furioso per la crepa nella gestione di atti secretati della Presidenza del Consiglio. In Francia, avrebbe aggiunto il Premier, per settimane nemmeno il ministro dell'interno seppe delle decisioni che intanto aveva assunto Hollande. Queste erano decisioni non governative, appunto, mi correggo, ma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dunque è rimasto stupito Renzi di leggere tutto sui giornali. E ora però cosa si dice? Prudenza, niente fughe in avanti, non imbarchiamoci subito in questa avventura, ci sono intanto due vite da salvare, c'è il rischio che queste vite diventino ancora maggiormente in pericolo, perché se l'Italia dovesse dire ora andiamo, acceleriamo, la linea è proprio il contrario, non cediamo a fughe in avanti, non cediamo ad accelerazioni. In tutto questo però il Corriere della Sera con Maurizio Caprara intervista l'ambasciatore americano in Italia, l'ambasciatore John Phillips, che parla anche dello spionaggio, del passato, eccetera, ma dice sulla Libia: a voi italiani la guida, ci aspettiamo 5.000 uomini. Quindi invece gli americani accelerano o dicono: dai, forza Italia, vi siete assunti l'impegno di guidare questa possibile missione, ci aspettiamo fino a 5.000 militari italiani in Libia. Oh ragazzi, qua si sta entrando in guerra, si viene a sapere, non si viene a sapere. No, perché attenzione, ci sono anche tutte le questioni degli interessi economici in quel paese che abbiamo noi italiani in Libia, che si intrecciano anche con la vicenda dell'uccisione di Giulio Regeni, ricercatore in Egitto. Peraltro la Libia confina con l'Egitto, quindi non è che stiamo parlando di paesi così distanti. Ebbene, perché ora si è diffusa un'altra idea, e cioè che addirittura l'uccisione di Giulio Regeni possa essere motivata, racconta dei giornali, per colpire gli affari italiani. Si fa presente che proprio in quei giorni in cui è stato ucciso Regeni era presente il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi in Egitto per appunto portare a termine importanti accordi commerciali con quel paese. Ebbene, la pista dei nostri 007 era proprio questa, scrive Repubblica. L'obiettivo forse era guastare i rapporti tra le imprese e la presidenza egiziana. E quindi Giulio Regeni sarebbe stato addirittura vittima di questo gioco ben più grande di lui e ben estraneo a lui. Questo è il sospetto dei nostri servizi segreti. E quindi vedete che insomma la situazione si fa molto, molto, molto intricata. Dicevo, le aperture di tutti i giornali sono legate alla Libia. Anche il Sole 24 Ore ha messo tutto ciò in prima pagina, ma il titolo principale invece del Sole 24 Ore è un altro, è la questione della, primo sia la riforma degli appalti, che come dice il ministro Delrio in un'intervista a Repubblica è legata a tre termini, a tre obiettivi: trasparenza, semplificazione e lotta alla corruzione. Allora, chi è questa riforma, caro Maurino Meazza? Oh, buongiorno, Maurito? Maurito, Maurito come, infatti come Maurino Icardi, Maurito Icardi Meazza. Buongiorno, caro Alessandro. Sì. Allora, sulle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore di oggi, tutti i contenuti che sono in questo decreto, che ha ricevuto il primo sì. Attenzione, perché bisogna aspettare adesso un ulteriore passaggio. Il termine per il varo definitivo è al 18 aprile, quindi te lo sei segnato? Eccolo qua, sì, 18 aprile. Che io cerco sempre di darti delle indicazioni anche temporali per queste cose qua. Allora, tra le altre vicende, come abbiamo già segnalato nelle settimane scorse, intanto che questo provvedimento era in preparazione, c'è anche questo maggiore coinvolgimento dell'ANAC, dell'autorità anticorruzione, quindi avrà dei poteri maggiori rispetto a quello che succede ora, e questo naturalmente per prevenire, come sappiamo, fenomeni di corruzione e di malo utilizzo di questi appalti pubblici. Ma molte cose, volevo fare un rientro sulla Libia solo per consigliare, sì, la lettura di alcuni articoli che ospitiamo poche pagine più avanti, appena due pagine più avanti. Tra l'altro, appunto, apprendo dall'articolo di Roberto Bongiorni, ci sono 230 milizie operanti in Libia con 140 tribù. Giusto per rendere chiara la situazione. Si capisce che non è semplicissimo, avevamo già il sospetto che fosse così. Ecco, la lettura di questa pagina insomma ti conferma che la situazione non è molto lineare, ecco, non c'è un gruppo o due gruppi che si contrastano, ma una situazione molto frammentata. Va bene, venendo ad altre questioni invece, sempre sul Sole 24 Ore, diamo una buona notizia: i brevetti italiani sono cresciuti nella registrazione all'organismo europeo del 9% nel 2015, è una buona notizia. E tra l'altro ho una buona notizia doppia, perché oggi peraltro c'è il viaggio in Italia che innova, che fa tappa a Bari, quindi sai, questo viaggio che il Sole 24 Ore sta conducendo proprio nei vari territori sulle capacità innovative della nostra impresa, che come si vede da questo dato sui brevetti sta andando bene, migliori. Una volta tanto siamo non solo in Champions League, ma la vinciamo pure. Invece, c'è un numero molto ricco nelle pagine di norme e tributi, sì, che tu leggerai come sempre religiosamente, perché così apprenderai che decideranno finalmente le sezioni unite su come vanno interpretate le nuove norme del falso in bilancio. Sai che su quello c'è stato un po' di indicazioni della Cassazione, non sempre dello stesso segno, ma ti spiega tutto Donatella Stasio. Tra l'altro, sconti per il condominio, tu dirai ma non è martedì, lo so, però anche di venerdì possiamo parlare di condominio, perché c'è stata quella serie di indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, ne abbiamo parlato ieri sui bonus fiscali per il 730 di dichiarazione dei redditi, alcuni riguardano anche il condominio, te lo spieghiamo. Se poi tu ti fossi perso, giusto settimana scorsa, il volume che abbiamo dato sulla casa, le novità per la casa, sì, che puoi trovarlo anche in formato digitale sul sito del Sole 24 Ore, su Store 24. Oh, vuoi una notizia da mani sul volante anche da parte mia? Dimmela. Non si possono fare i tagli alle auto blu alle regioni, neanche alle spese per taxi. La Corte Costituzionale ha detto che la norma che è stata varata qualche anno fa non va bene. Bisogna indicare dei risparmi alternativi. Insomma, la regione può tenersi le sue auto blu. Non so se è abbastanza mani sul volante per la tua graduatoria. Faccio questa nomination. Invece, buona notizia per le università, partirà l'abilitazione a sportello. E so che magari è una cosa un po' oscura, però se leggi, nei pagine Norme e Tributi, specialmente per la parte universitaria, prima tu hai dato le indicazioni per gli studenti, diciamo fino alle superiori, adesso io te ne do una in Norme e Tributi per le università. Oh, e infine, concluderei con questo, non prima di averti fatto tanti cari auguri per la tua domenica, che ti auguro, specialmente nel pomeriggio, particolarmente di soddisfazione per le questioni calcistiche. Sappi che l'azienda sul fumo passivo che deve intervenire, non è che può far solo una circolare. Se poi continua a tollerare le situazioni di fumo passivo e non prende le sanzioni disciplinari, caro, allora a quel punto lì c'è la multa. Ci spieghiamo azienda e circostanze nella pagina di Norme e Tributi. Sì. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Ciao Milan, un saluto anche a te. 3-1, 3-2, 3-3. Ti ricorda niente? Marco Shevchenko. Il tiro! Liverpool è campione d'Europa. È vero. È andata molto meglio a Manchester. Molto. A Manchester. Remember, caro ascoltatore. Remember, Manchester. Allora, rigori anche lì, peraltro. Chi di rigore ferisce? Allora, le amministrative. C'è una notizia, a parte domenica ci sono le primarie del centro-sinistra a Roma. C'è Bertolaso ancora in bilico, ma Berlusconi dice è lui il candidato. Ma c'è una notizia che mi ha colpito, che riguarda anche il nostro amico, spesso ospite, Marione Adinolfi, perché La Stampa con Amedeo La Mattina, pagina 9, racconta che Mario Adinolfi si candida sindaco a Roma. Dal Family Day alle urne, Adinolfi si sogna sindaco, racconta La Mattina, che sono presenti liste di cattolici in 300 comuni. È quello che abbiamo sempre detto, la trasformazione del popolo del Family Day in qualche modo in liste alle amministrative. Anche a Roma il candidato sindaco nella capitale sarà proprio lui, il massiccio Adinolfi. Vabbè, massiccio se lo poteva risparmiare, mi dio La Mattina. Comunque, Adinolfi, che spera di avere accanto Massimo Gandolfini, portavoce del comitato Difendiamo i nostri figli, uno dei principali organizzatori del Family Day. Allora, annunciare la sfida sul giornale online La Croce è lo stesso Adinolfi al grido di proviamo a fermare un paese avviato verso il baratro. Insomma, ti candidi, Marione? Oh, ma chi è? Non ci viene a dare queste notizie in anteprima? Ma com'è possibile queste cose? Vabbè, che dobbiamo fare? A proposito di politica, tra l'altro, c'è un gustoso retroscena di Augusto Minzolini, che evidentemente deve avere ritrovato il piacere, si annoierà un po' in Parlamento, di scrivere sul giornale. Augusto Minzolini fa un lungo articolo dedicato ad Alfano, molto critico. Il leader del nuovo centrodestra in crisi mistica confida Angelino Alfano al titolare del negozio di cravatte sartoriali Talarico, al civico 52 di Via dei Coronari, due passi dal Senato, amico suo. Beh, talmente amico suo che tutto viene spifferato al giornale. Comunque, Alfano avrebbe confidato a questo amico: ma perché la gente non mi vota? Perché nei sondaggi non arrivo al 3%? Ed ecco, questa è la genesi del pezzo di Minzolini dal titolo Alfano, perché non mi votano? E una lunga disamina di quello che è la politica alfaniana, che poi continua a pagina 11 del giornale. Oh, ci sono ancora le polemiche per Vendola, la scelta di Vendola, l'utero in affitto. c'è il Corriere della Sera con Monica Ricci Sargentini che va a scovare un po' quella che dovrebbe essere la clinica a cui si è rivolto Vendola col compagno, la clinica, l'associazione Extraordinary Conceptions di San Diego. Così lavora la clinica del caso Vendola. Ecco le regole, ecco i costi di questa organizzazione, pagina 13 del Corriere. Ci sono poi le critiche anche da sinistra, anche da chi come Stefano Fassina, certo non molto in posizioni negative nei confronti di Vendola, però dice non un figlio non è un diritto, i diritti individuali hanno un limite. C'è anche l'intervista al Giornale a Alfonso Signorini, direttore di Chi e omosessuale dichiarato, che dice: io omosessuale di buon senso sono contro la maternità surrogata. Prima di ogni cosa, dice Alfonso Signorini, sono per il diritto dei bambini, non si può negare loro il diritto di avere una madre naturale. È un rapporto irrinunciabile, dunque sono contento per Nicky Vendola e il suo compagno, ma mi chiedo, la madre dov'è? Beh, sorprendente, direttore, ma per niente, io parlo da omosessuale, ma da omosessuale di buon senso. Mi fermo dove si ferma la natura. Oltre non bisognerebbe mai andare. Così Alfonso Signorini, intervistato da Valeria Braghieri sul Giornale, l'intervista la trovate a pagina 13. E dunque, dice Alfonso Signorini, ma dunque allora le coppie omosessuali non dovrebbero avere figli? Certo che dovrebbero, ma adottandoli. Perché non ci battiamo per le adozioni, per esempio? Potremmo garantire a un sacco di bambini già nati condizioni di vita migliori. Invece per egoismo andiamo a crearne, tra virgolette, crearne altri ad ogni costo. Mi sembra si sia un po' perso l'uso della ragione. Così Alfonso Signorini. Va bene, ma siamo alla carta costa, un'intera pagina del Corriere della Sera. Eccoci qua con Paolo Di Stefano, siamo a raccontare il narcisismo di massa. Ebbene sì, racconta Paolo Di Stefano, che ormai condividiamo ogni esperienza su Facebook, su Twitter, su Instagram, di qui, di là, di su, di giù, in cerca di soddisfazioni. E cosa sono le soddisfazioni? I like. Mi piace, ecco perché tutto ciò ci rende narcisisti. Ma chi se ne frega?